I lavori di domani di Anna Marino. Mixologist, bar lady, barman, bartender, qual è la differenza tra queste figure e qual è il loro futuro che si sta trasformando anche digitalmente? Non solo per l'emergenza, ma soprattutto per renderlo solido e sostenibile. Per questo oggi conosciamo meglio le nuove strade da percorrere per chi vuole diventare il re del mix e orientarsi in questo mondo dei cocktail che oramai affascina anche da casa. Per fare un parallelo con il mondo della ristorazione, quando si va a mangiare in un ristorante stellato, in cucina c'è un'intera brigata che si occupa di far uscire deliziosi manicaretti preparati alla perfezione, ma la creazione di queste ricette è in mano allo chef, cioè una figura che oltre alla capacità operativa e manuale ha sviluppato delle doti creative, frutto di studio ed esperienza sul campo. Quando un cliente lascia carta bianca a chi sta dietro il bancone, il bartender sceglierà una ricetta tra le centinaia che conosce, da utilizzare in quel momento per soddisfare la richiesta del caso. Il mixologist invece, con poche domande mirate al cliente, creerà un cocktail su misura, con un'abilità degna di un sarto o di uno chef che possa sposarsi perfettamente con i gusti della persona che ha davanti. E noi, come sempre, come per ogni puntata del Lavoro di Domani, sul sito di Radio 24, alla pagina programma, vicino al podcast e alla descrizione di questo lavoro, segnaleremo subito app, siti utili e link su cui cliccare per avere le informazioni, la formazione e, perché no, dritte sulle opportunità per questa figura. Chi volete diventare? Chiediamo gli ingredienti giusti a Luca Malizia, che ci parla della formazione del mixologist, bar lady, barman e bartender. Ovviamente il lavoro del barman è un lavoro che tutti conoscono in maniera diretta, anche perché sicuramente chiunque si è fatto servire dal caffè o dal cocktail o qualsiasi bevanda, insomma, che viene venduta nei locali. Quello che sta cambiando negli ultimi anni, soprattutto grazie a un cambiamento nell'attenzione dei clienti da un punto di vista della qualità che viene espressa, anche legato a Masterchef, a tutti questi programmi qui che hanno fatto passare anni fa i cuochi da semplici garzoni, diciamo, che stavano chiusi in cucina, a stelle, e piano piano questa cosa sta succedendo sempre di più anche nel mondo del bar, non solo nel mondo della notte, dove magari è più semplice immaginarlo, ma anche nel mondo della caffetteria diurna. Ci sono sempre più l'attenzione al latte arte, tutte queste competenze qui che servono per rendere l'esperienza del cliente sempre più wow. E quindi è chiaro che è un lavoro che da una parte richiede sempre più competenze, quindi sempre più formazione, ma dall'altra parte comincia a essere un lavoro che, al netto di questo stop legato a questa pandemia, comincia a offrire delle opportunità sempre superiori. Quindi fare il barman non è più un lavoretto per chi non ha finito gli studi o per chi sta cercando un lavoretto d'appoggio mentre fa altre cose, ma comincia a diventare sempre più un'opportunità di fare carriera, crescere, entrare in aziende importanti e avere quindi un percorso professionale a tutti gli effetti, che non si esaurisce magari in qualche serata di divertimento, ma che può diventare un vero e proprio lavoro per creare un futuro. Dove ci si forma e come avviene la vostra formazione? Ovviamente è particolare, insomma, bisogna avere a disposizione molte bottiglie, molto tempo e chi insegna ovviamente a mixare tutto. La formazione negli anni è cresciuta sempre di più, e questo non solo in realtà nel nostro settore, perché più, diciamo, il mondo evolve, più la tecnologia cresce e più le persone inevitabilmente, volendo o non volendo, si rendono sempre più conto che investire nello sviluppo delle proprie competenze è l'unico modo per non rimanere indietro sul mercato e anzi anticipare certe tendenze e cominciare quindi ad avvantaggiarsi e avere una posizione di mercato rilevante e poter quindi ottenere dei risultati superiori a quelli che vengono ottenuti se semplicemente ci si butta sul mercato senza competenze e si trova il lavoro che capita, che ovviamente è sempre mal pagato e senza futuro. Ecco, in pratica i corsi come si svolgono? Quali step? Che cosa si impara? Quante bottiglie si fanno andare? Insomma, la mia accademia, quindi quello che facciamo a Roma e a Milano, noi abbiamo delle strutture molto grandi proprio per cercare di dare una simulazione più che reale di quello che è poi il lavoro al bar. Sono 700 metri quadri di struttura l'una, con tante aule dedicate a vari percorsi professionali che servono a sviluppare differenti competenze. Ovviamente si comincia dai corsi base, sono quei corsi in caffetteria e miscelazione dove io non solo imparo a fare le ricette base che dovrò andare a produrre quando sono al lavoro, non solo imparo tutta una serie di regole fondamentali di miscelazione o di produzione del caffè in macchina, al bar e via dicendo, ma soprattutto, almeno nella nostra accademia, si comincia subito a lavorare per indirizzare le persone verso una visione più ampia di quello che è il lavoro, quindi non rimanere legati all'idea di imparo a fare un mestiere, vado a fare il dipendente e rimango fermo nella mia vita, ma fatti subito vedere quali sono le cose importanti. Certo, queste sono parte delle soft skill che si devono imparare, invece le hard skill sono quelle, insomma, di saper fare i cocktail. Quanti cocktail ci sono? Allora, i cocktail sono migliaia. Nell'accademia da noi si esce che se ne è imparati già qualche centinaio, che sono più che sufficienti per affrontare qualsiasi tipo di bar. Poi i bar sempre di più, proprio cercando anche loro ovviamente di differenziarsi sul mercato e offrire qualcosa di diverso da quello che può offrire il classico bar, tendono sempre di più a creare dei menu unici creati direttamente dentro al loro locale. Quindi tendenzialmente un barman, il barman maschile, e quindi in inglese c'è anche la figura della bar lady, che è figura femminile al bar, con tutte queste, diciamo, attenzioni verso i generi che ci sono negli ultimi decenni, a un certo punto è nata la parola bartender, che è neutra, e quindi che sta a indicare un barman indipendentemente che sia uomo o sia donna. Il mixologist tendenzialmente è diventata una figura sempre più in voga in questi anni e tende a sottolineare già un aumento di competenze. Certo, in realtà appunto crea anche, è un creativo e deve sapere anche la storia dei cocktail. Leggevo ieri che il Negroni è nato da un conte che si era un po' stufato dell'americano classico, e questo bisogna saperlo spiegare. Le materie di studio sono anche la storia dei cocktail. Sì, la storia soprattutto si studia perché possono essere quegli elementi narrativi che quando viene presentato un cocktail rendono ancora più particolare la sua presentazione, quindi con l'esperienza di chi lo beve. Facciamo molta degustazione per allenare i ragazzi a conoscere i prodotti e quindi poi avere la capacità di poter miscelare con una competenza reale, creare poi menù realmente interessanti che prima non c'erano sul mercato. Qual è la forchetta di guadagno per queste nuove figure, anche a seconda della seniority? Un barman appena uscito dalla nostra accademia, entro 3 mesi, noi abbiamo il 95% praticamente dei barman che si sono diplomati con noi, trovano lavoro entro 3 mesi, e già dal primo lavoro un barman guadagna minimo 1.200-1.300 dal mese più le mance. È ora di prendere appunti, lo dico agli ascoltatori, li troverete anche sul sito nell'introduzione al podcast. Riassumiamo, prendete carta e penna o i vostri device e via con gli appunti. E quali indicazioni, app e siti per formarsi e informarsi e per la ricerca del lavoro? Noi, come sempre, come per ogni puntata del Lavoro di Domani, sul sito di Radio 24, alla pagina programma vicino al podcast e alla descrizione di questo lavoro, segnaleremo subito app, siti, link utili su cui cliccare per avere informazioni e la formazione, perché no, anche dritte sulle opportunità per questa figura. Oggi lo facciamo ovviamente per la formazione in mixology del mixologist con Luca Malizia. Online ovviamente la formazione ha uno svantaggio, che è quello di non poter avere tutta una serie di strumentazioni e di rapporto diretto con le persone, ma per esempio la Mixology Academy proprio durante la pandemia ha organizzato un corso in cui viene spedito, per chi è interessato a formarsi anche in questo momento, letteralmente un bar portatile a casa, e si fa tutto quanto il corso a distanza via telematica. Al netto di questo, ovviamente ci sono tantissimi canali informativi che noi produciamo per cercare il più possibile di aiutare tutti quanti i ragazzi interessati a entrare in questo settore e a crescere in questo settore, che sono anche gratuiti e quindi possono essere consultati senza dover magari cominciare subito investendo dei soldi, ma semplicemente investendo il proprio tempo, che comunque in realtà è l'investimento più grande che possiamo fare su noi stessi. Il suo cocktail preferito? Il mio cocktail preferito è l'Old Fashion. Cioè, ce lo spieghi velocemente? È un cocktail a base di whisky con un po' di zucchero, tendenzialmente molto semplice. Sono un amante del whisky, quindi in generale tendo a non bere tanti cocktail, quindi l'unico cocktail che tendenzialmente mi bevo è proprio una piccola variante di un whisky leggermente allungato, ma fondamentalmente È un whisky liscio. Ecco, ovviamente in questo periodo a casa abbiamo brindato molto di più e probabilmente anche diciamo, l'aumento della vendita ha significato anche una maggiore esperienza, ecco, delle persone rispetto alle materie prime. Quale futuro vedi per questa figura del mixologist? Anche a casa le persone sempre di più potrebbero molto facilmente organizzarsi per prodursi dei cocktail di buon livello. Quello che cambia è l'esperienza che bisogna far vivere al cliente e quindi di conseguenza le competenze che deve sviluppare sempre di più un barman e quindi diventare una figura non semplicemente legata al bar e alla produzione del cocktail, ma una figura che ha idea di che ruolo ha all'interno di un'azienda e quindi qual è il suo contributo reale al guadagno aziendale. Quindi la produzione del cocktail è solo una di queste, ma la produttività, l'organizzazione, gestione degli sprechi, la skill più importante quando si è su un mercato e noi tutti viviamo in un mercato è la vendita sotto mille sfaccettature.